eccelsa e di statina porti. È giunto appena, in lei già parli. O pena, sprona il pensier la lingua. Lei sol pensi. E tante pur ne miro, quando al par di statina, di latessino, e gli occhi di zaffiro. Tranne le forme amate, e vile a chi vendamo libertate. Amo, Dario, ancor io, eppur tu disuguale, mi sembri nel volto, alli nel mio. Tendesse, oh Dio! Non è forse il tuo amor gigante ancora? Quel volto mi innamora, ma baiano quei lumi degli astri erranti e fissi, assai più luminosi. Ah, troppo io dissi! Meco tu scherzi! No, dirti voglio che tu sei vago al pari di colui che m'accende. L'incauto non mi intende. Ma che disse statina? E pur torna la meta, urre un cordoglio. Ella un'alma d'ascolto. Infelice che ascolto. No, vardi, mi sovviene. Ai primi soffi del cerino aquilone non si piega le querce. Io ti prometto di intenerir alla superba il petto. Lusinghiere speranze. Deggio intanto scrivere al mio conforto. E perché non ben ferma tra le smanie singhiozzi trema la destra, or voglio che tu sparga per me l'inchiostro un foglio. Eccomi pronto. Olà,